Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ma allora facciamo Mebius, Chiara? Sì, direi di sì, come ogni settimana da ormai il 2007, pensa quanto tempo, fra un po' facciamo 10 anni, Federico. Da che cosa incominciamo? Allora, la questione della gestione della legge e le nuove tecnologie digitali. E poi parliamo di carbone, partendo dalla domanda di una nostra ascoltatrice, Valeria, che a seguito del vertice COP21 si pone delle domande sulle energie prodotte da carbone e appunto su questa materia prima un po' discussa. Via! La gestione della legge e le nuove tecnologie digitali. Si è discusso di questo argomento in un convegno al Tribunale di Milano in occasione, fra l'altro, dell'uscita di un saggio, The Challenge of Innovation in Law, edito dalle edizioni universitarie dell'Università di Pavia, quindi la sfida della innovazione nell'ambito legale. Gli autori sono Amedeo Santosuoso, che è giudice del Tribunale di Milano ma anche docente a Pavia su queste tematiche, poi Oliver Goodenough, anche lui docente in questo campo all'Università del Vermont negli Stati Uniti, e Marta Tommasi, che lavora a Pavia al Centro Europeo per i Rapporti fra Legge e Nuove Tecnologie. Iniziamo sentendo l'ingegnere Antonio Barilli, ricercatore presso il Laboratorio di Informatica Forense dell'Università di Pavia, che, partendo da un'esperienza di lavoro, riesce a spiegarci come dobbiamo guardare alla vertenza Apple contro FBI, che sta occupando le pagine in queste settimane dei quotidiani, e proprio di questa settimana è l'arresto del direttore di Facebook in Brasile. Una persona trovata cadavere disponeva di un account Facebook, e quindi la polizia giudiziaria ha pensato di acquisire presso Facebook la possibilità di accedere al suo account. Ora, la politica che Facebook normalmente adotta è quella di garantire l'accesso in tempi rapidi, quindi per le vie brevi o con procedura d'urgenza, quando ci sia una persona in immediato pericolo di vita. Mentre nel caso di persone, come nel mio caso decedute, mancando questo immediato pericolo, non viene consentito un accesso per le vie brevi, ma viene chiesta una rogatoria, quindi che sia il giudice americano, che è il giudice naturale per Facebook, che sia il giudice americano a ordinare il disclosure dei dati. Il che può apparire decisamente sgradevole dal punto di vista della polizia italiana, della polizia giudiziaria italiana. Però dobbiamo pensare dal punto di vista di Facebook. Allora, non c'è nessuna ragione, se io fossi il signor Facebook, non c'è nessuna ragione di trattare l'Italia diversamente dagli altri stati, i quali spesso, vediamo, non sono di provata virtù come l'Italia. Il problema qual è? Nel momento in cui Facebook consentisse di agire per le vie brevi nei confronti della polizia giudiziaria italiana, al di fuori dei casi che abbiamo detto, dovrebbe fare altrettanto nel confronto di altri stati con i quali l'America e gli Stati Uniti hanno altrettanto interesse a mantenere buone relazioni diplomatiche, ma che non sono di altrettanta provata virtù, diciamo così, soprattutto per quel che riguarda il rispetto dei diritti umani. A questo punto l'unica scelta, la scelta obbligata per queste società, è quella di richiedere che sia il loro giudice naturale, cioè il giudice americano, a ordinar loro di divulgare questi dati. Questo è un problema che probabilmente si è posto anche nel caso Apple FBI. Nel momento in cui Apple accetta un ordine, in questo caso della sua autorità giudiziaria, ma per fare questa operazione dovrebbe accettarlo anche per qualsiasi richiesta provenisse anche da stati nei confronti dei quali, per esempio, non vuole o non può, oppure avrebbe, diciamo, motivi di ritenere non opportuna dar seguito all'operazione. L'informatica, la internet, ma l'informatica in generale, ha una dimensione globale per sua natura, e questa non è limitabile con una legge, o non si può dire questo sì, questo no, anche perché creerebbe problemi di relazioni internazionali peggiori forse di quelli che si vogliono risolvere. Negli Stati Uniti sta emergendo un altro aspetto controverso di questa vicenda, che ruota intorno a siti di consulenza legale per i cittadini. Uno di questi, che sembra avere molto successo, è LegalZoom. Sentiamo Oliver Goodenough. So when you have whether it's LegalZoom or these other activities that come in. Cosa dice in sostanza Oliver Goodenough? Che questo sito LegalZoom nasce da altri siti che c'erano già di consulenza per gli avvocati, addirittura anche per i giudici, dei siti di database di informazioni informazioni su tutto quello che avviene nei tribunali. A un certo momento questo sito LegalZoom ha preso tutti questi dati, ci ha aggiunto una propria attività di consulenza, e allora sono i cittadini che usano LegalZoom per fare che cosa? E beh, per riuscire ad avere una migliore amministrazione dei loro casi. Perché? Perché gli avvocati costano tantissimo negli Stati Uniti. Gli avvocati si sono messi a protestare, ma questa protesta è stata un po' un boomerang, perché quello che è venuto fuori è che se andare in tribunale costa così tanto, c'è un difetto di fondo nella giustizia. E quindi come si fa a lamentarsi del fatto che ci siano degli strumenti che consentono a chi non ha soldi di poter gestire meglio le proprie vicende legali? Un terzo aspetto ce lo racconta Amedeo Santosuoso. Un esempio concreto: e se una sentenza resa in uno Stato europeo può essere immediatamente esecutiva in un altro Stato. In passato bisognava passare per tutta una procedura formale, era una sottocausa, diciamo così. Ora invece c'è una modifica di tipo legislativo europeo che dice che ogni sentenza è esecutiva in un qualsiasi Stato dell'Unione. Ma nello stesso tempo questo significa che questa sentenza può essere conosciuta in qualsiasi Stato dell'Unione. Allora anche che il più sperduto ufficio giudiziario immediatamente è in contatto reale o potenziale con qualsiasi altro Stato. A me è capitato nella mia esperienza sul versante non accademico ma sul versante giudiziario un caso di mandato di arresto europeo in cui un signore aveva sottratto i due figli ed era scappato e ritornava negli Emirati Arabi. La moglie è andata dal giudice tutelare di, mi pare fosse Manchester, e ha ottenuto un ordine immediato, e nel giro di 24 ore questo signore è stato fermato, i bambini recuperati, e è stato fatto l'interrogatorio secondo le forme. Perché sarebbe folle non approfittare del fatto che queste nuove tecnologie ci possono dare una giustizia europea, no? Ma il problema è che a quel punto la consistenza, l'omogeneità delle leggi o sono in tutti gli stati, o se no salta il meccanismo. Ecco, l'omogeneità delle leggi a questo punto può essere garantita attraverso un meccanismo a rete di tipo elastico e che cambia o può cambiare configurazione. Allora, intanto questi elementi che abbiamo definito, chiamiamoli come i mattoncini del Lego o particelle elementari, io utilizzo questa dizione, e dobbiamo considerare che sono espresse molto spesso in lingue diverse, in linguaggi naturali diversi, quindi c'è un problema di come metterle in connessione. Qui la tecnologia può aiutare, e vi è un prototipo che stiamo elaborando all'Università di Pavia di archivio multilingue proprio che rende possibile questo tipo di connessione. Ma poi quello che crea la coerenza del sistema, sia pure una coerenza flessibile, è la possibilità che ogni elemento ha di connettersi a una rete di altri elementi, un po' come le vecchie valenze della chimica, no? Non tutti possono andare d'accordo con tutti, ma si possono creare dei piccoli network che poi sono parte, possono essere i piccoli network nodo di un network ulteriore, eccetera. Quindi dobbiamo abituarci a una visione del diritto che è quella di un sistema dei sistemi, più complessa, ma non significa necessariamente meno coerente e meno, diciamo, avente una logica intellegibile. Il traffico, adesso ci dicono cosa succede sulle nostre strade. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Una nostra ascoltatrice, Chiara, ci ha fatto una domanda molto precisa a seguito del vertice di Parigi. Sì, Valeria, appunto, forse colpita da quella puntata che noi abbiamo dedicato al vertice di Parigi subito dopo la realizzazione di quel contratto, subito dopo abbiamo dedicato questa puntata. E Valeria adesso ci pone questa domanda che è assolutamente conseguente. Sentiamo. Dopo il meeting di Parigi, dal quale è uscita la decisione di ridurre fortemente la produzione di energia da carbone, paesi come la Cina e l'India, che insieme sono di gran lunga i maggiori consumatori di carbone, dicono che per loro è molto difficile. in particolare l'India. La domanda è: ma se questi non ce la fanno, non sarà tutto inutile? Grazie. L'osservazione di Valeria ci sta tutta. Indubbiamente, ecco. Penso che siano in tanti a domandarselo e forse noi tutti. Allora dai, incominciamo. Dai, come sempre abbiamo i nostri ospiti esperti che insomma ci danno il loro contributo per rispondere agli ascoltatori. Cominciamo con la tecnologia. Ci sta ascoltando via Skype Gianni Silvestrini, benvenuto, ben ritrovato qui a Mebius. Ho sentito la domanda e posso cercare di dare una risposta. Adesso ci arriviamo subito, Gianni. Presentiamo invece l'altro nostro ospite qua di fianco a me. Benvenuto Enrico Sassoon. Grazie, Enrico, buongiorno. È anche un collega giornalista. Enrico Sassoon dirige l'edizione italiana della Harvard Business Review, che è la rivista che, come diciamo, diffonde tutte le attività di ricerca della prestigiosa Harvard University. Allora, sì, Gianni, possiamo. Oh, Federico, Gianni è abituato come, diciamo, ospite di Mebius abituale, non l'abbiamo presentato, ma è direttore del Kyoto Club, è già stato, certo, appunto nostro ospite quando abbiamo parlato in occasione del vertice COP21. Quindi, Gianni, vai, adesso possiamo rispondere a Valeria. Sì, la domanda è assolutamente centrata perché ovviamente. Molto della strategia di riduzione delle emissioni a livello globale dipenderà dalle scelte che verranno compiute in particolare da Cina, ma anche dall'India, da altri paesi che hanno in questo momento una rapida crescita. Ecco, le buone notizie vengono proprio dalla Cina. La Cina, sono uscita proprio in questi giorni i dati del consumo di carbone e delle emissioni di CO2 del 2015 e per il secondo anno consecutivo i consumi di carbone sono calati e le emissioni di CO2 globali della Cina sono calate. Questa è una cosa assolutamente imprevista perché voi sapete che la Cina aveva a Parigi proposto di arrivare a un picco delle emissioni nel 2030. Molti di noi dicevano, ma anche diciamo all'interno della Cina c'erano voci autorevoli che sostenevano che in realtà il picco delle emissioni poteva essere raggiunto già prima, nel 2020-2025. I dati di questi ultimi due anni, entrambi in calo, non devono far pensare che abbiamo già raggiunto il picco, perché c'è stato un livello di idraulicità molto favorevole, quindi in situazioni particolari. Ma certo ci fanno capire che è possibile che verso la fine del decennio noi potremmo raggiungere il picco delle emissioni. Perché? Perché abbiamo una straordinaria crescita delle rinnovabili. Pensate che l'anno scorso la Cina ha installato oltre 33.000 megawatt di eolico, che è 4 volte quello che l'Italia ha installato in 20 anni. Questo per dare l'idea della rapidità. L'impegno è forte. Impegno fortissimo e questo fa ritenere che e contemporaneamente sta chiudendo molte centrali a carbone. Una delle prime decisioni della Cina dopo Parigi è stata una moratoria nella realizzazione di nuove miniere di carbone e la chiusura di 1.000 piccole miniere. Quindi il segnale di inversione dai fossili alle rinnovabili è molto evidente. Questo per quanto riguarda la Cina. La questione però, giustamente come sollevava Valeria, è anche l'India che invece si attarda un po'. Nel senso anche, Gianni, che qui c'è un problema e cioè dobbiamo pensare che è necessario ridurre, ma ci confrontiamo anche con un paese, l'India, che indubbiamente ha bisogno anche di consumare di più. Stiamo parlando di un paese nel quale, lo dicono loro, il 50-60% delle persone non ha accesso a servizi igienici. Quindi il problema non è pensare di ridurre da adesso, ma bisogna ridurre certamente consumando di più. Sì, ma anche la Cina pensa di ridurre perché i consumi aumenteranno, solamente che verranno progressivamente coperti dalle rinnovabili invece che dal carbone. Questo è il concetto. Ma l'India sicuramente è più l'obiettivo è molto più ambizioso perché partono da un livello più basso, hanno 240 milioni di persone che non sono connesse alla rete elettrica, ci sono 18.000 villaggi che non sono connessi alla rete elettrica, quindi la sfida è decisamente più ambiziosa. E diciamo il presidente indiano Modi è un fan del solare, infatti ha lanciato l'alleanza solare con l'India come capofila e si è dato obiettivi anche l'India estremamente ambiziosi, cioè l'India vorrebbe entro il 2022, cioè in 7 anni, raggiungere 120.000 megawatt di solare e 175.000 megawatt di rinnovabili nel suo complesso, ma contemporaneamente punta ancora ovviamente sul carbone, perché ha una fame di energia che deve essere soddisfatta e non può essere soddisfatta solamente dalle rinnovabili. Allora il tema in questo caso è vedere in che modo si può contenere la domanda con usi efficienti. Per esempio, sempre l'India sta facendo una campagna di sostituzione dell'illuminazione a incandescenza con i LED, in modo da riuscire a dare servizi ma in maniera più efficiente e avere quindi meno bisogno di nuova domanda elettrica. Quindi la combinazione di politiche di efficienza energetica da un lato e di rinnovabili dall'altra potrebbe contenere la domanda di carbone. Questa è la vera sfida dell'India. Loro sono molto coscienti, peraltro. Cioè avere sviluppo, ma sviluppo che consuma meno. Ecco, allora io adesso andrei da Sassoon. Certamente a questi paesi noi non possiamo dire appunto che non devono crescere. E però adesso mi pare di capire che vediamo come questa equazione è possibile risolverla. Però tu sei qui non solo perché la Business Review della Harvard si interessa di questi temi di economia e di politica strategica internazionale su temi appunto come il consumo, ma anche perché la Harvard University ha fatto un lavoro per il Vietnam, paese che per molti aspetti dal punto di vista dello sviluppo possiamo ritenerlo analogo a quello dell'India, e il Vietnam invece si è proprio lanciato a corpo morto in un progetto di riconversione, eliminazione totale delle centrali. Qual è il tuo punto di vista? Anche perché forse non è solo il Vietnam come paese. Sì, allora il Vietnam, per la verità, la Harvard University lo sta studiando, è un paese che sta studiando da parecchio tempo. Da tempo. Già 15 anni fa aveva fatto uno studio in cui analizzava le prospettive energetiche del paese, che allora prevedeva, si parla del 2005-2006, di quadruplicare l'utilizzo del carbone nel giro di 10-15 anni. Quindi questo stop che è stato annunciato di investimenti sul carbone è clamoroso. Questa decisione arriva perché sono stati fatti appunto ulteriori studi che indicano molte vittime da carbone, dall'utilizzo del carbone, vittime che possono venire sia dall'aria che respirano, voglio dire, quindi l'inquinamento, piuttosto che non addirittura in miniera o anche in modi diversi. Ci sono stati episodi importanti di allagamenti di miniere, inondazioni che poi hanno portato in giro tanti veleni e ci sono state molte vittime. E addirittura la previsione era, se quei piani che erano stati annunciati in precedenza venissero implementati, si passerebbe da 4-5 mila vittime all'anno a causa del carbone a 25.000. Tra l'altro non è l'unico paese, anche l'Indonesia ha una previsione di 25-30.000 vittime per il carbone, e quindi anche lì ci si aspetta delle decisioni importanti. Allora, ma che cosa significa questo? Significa che se un paese tutto sommato povero e arretrato, più povero e più arretrato dell'India, come il Vietnam, decide di passare a fonti rinnovabili, si può fare. Cioè anche i paesi in via di sviluppo lo possono fare. Ci sono casi veramente importantissimi di paesi in via di sviluppo che lo hanno già fatto. Per esempio l'Uruguay ha annunciato recentemente di essere praticamente al 100% rinnovabili e quindi di essere sostanzialmente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio. C'è un paese come il Marocco, che certamente non è un paese ricco, che sta per aprire la prima e la più importante centrale solare al mondo, centrale elettrica solare al mondo, e che le consentirà di arrivare a un'indipendenza energetica del 50%, con tutte le conseguenze positive che. Quindi questo che cosa dimostra? Dimostra che non è necessario pensare solamente ai paesi ricchi e avanzati. Qui c'è un tema come riduzione e passaggio alle rinnovabili, c'è un tema di finanziamento, e c'è un finanziamento mondiale che verrà implementato grazie a COP21 nei prossimi anni, c'è un tema di trasferimento di tecnologie, questo è importante, finanziamenti parte ci sono. Certo, di trasferimento tecnologico e soprattutto di decisione politica. Qui la politica deve fare la sua parte per arrivare a decisioni che si possono fare sia economicamente sia tecnologicamente. Oh, una battuta finale, perché noi abbiamo parlato di economie emergenti, appunto paesi poveri, però in realtà Stati Uniti e Europa non è che siano non dipendenti dal carbone, quindi anche noi non è che dobbiamo stare seduti sugli allori e guardare, insomma, sì, esatto, anche noi dovremmo fare qualcosa. C'è un'immagine che potrebbe circolare regolare, cioè se Cina, India, questi qui che sono siamo i grandi consumatori ci danno dentro, noi non dobbiamo fare più niente. Mentre invece anche in Italia l'Enel per esempio l'ha annunciato, c'è un piano di chiusura di tutte le 13, mi pare siano le sono centrali, 13, sì, le centrali che vanno ancora a carbone. Gianni, anche noi dobbiamo darci dentro, cioè tutti devono darci dentro. Ma assolutamente, noi abbiamo l'obiettivo come Europa di 40% di riduzione delle emissioni al 2030 e poi con uno scenario di decarbonizzazione che prevede una riduzione dell'80% delle emissioni al 2050, che è fra 35 anni, che significa che abbiamo iniziato un percorso ma che deve vedere un'accelerazione. Questo è molto importante. Grazie all'Europa che si è creato un mercato delle rinnovabili in tutto il mondo, cioè se oggi il fotovoltaico costa il 70% in meno rispetto al 2009, proprio grazie ai programmi fatti dalla Germania, dall'Italia, dalla Spagna, e adesso possono camminare queste tecnologie con pochissimi incentivi o addirittura senza incentivi, perché la cosa interessante è che in molti paesi del terzo mondo si installa eolico e fotovoltaico senza incentivi. E l'altra cosa importante è che dopo la COP21 investimenti colossali di centinaia di miliardi di dollari stanno passando dai fossili alle rinnovabili e efficienza. Questa è la grande svolta che sta avvenendo. Certo. Allora, proprio come una battuta per ognuno di voi due, a tutti coloro che hanno la sensazione che Parigi con questi suoi grandi obiettivi possa essere un lancio nel vuoto, perché avrà tutte come la nostra Valeria appunto, esatto, invece no, la vostra opinione è che è qualcosa dobbiamo che essere si può ottimisti fare. Tutte queste grandi conferenze internazionali sono degli accordi quadro e poi bisogna vedere la volontà di ogni paese di andare avanti, ma dato che il tema esiste, il cambiamento climatico non è in discussione, semmai saranno in discussione le cause, c'è chi dice che sia più origine artificiale, chi invece dice che è un'oscillazione naturale, ma qualunque sia l'origine che sia in atto sembra essere in dubbio, allora tutti devono fare la loro parte. Volevo solo attirare l'attenzione su un elemento che va un momentino al di là, quindi la risposta è certamente se si vuole fare questa cosa si può fare e addirittura non bisogna capovolgere il problema, i paesi in via di sviluppo lo devono, lo possono fare naturalmente, ma questo è inutile veramente dirlo, i paesi sviluppati lo devono fare ancora di più perché hanno più risorse per farlo. Ricordiamoci che non sta tutto nella generazione dell'energia il problema dell'inquinamento, il problema del riscaldamento globale, ma c'è il problema colossale dei trasporti. Richiamiamo solamente, senza poter discutere oggi perché non c'è il tempo, il fatto che ci sia questo crollo dei prezzi del petrolio che potrebbe anche permanere, diventare relativamente definitivo, magari col tempo, comporta prezzi più bassi del petrolio che diventa più competitivo rispetto alle altre energie, soprattutto le rinnovabili, e rischia di spiazzare maggiore risposta, ancora maggiore volontà politica per farlo. E questa è un'altra puntata. Bene, invece Gianni sappiamo che è grandemente, che fortemente Parigi, ottimista, ne abbiamo già parlato. In un'altra trasmissione. Grazie ai nostri ospiti, salutiamo nostri gli ascoltatori e ci sentiamo la prossima settimana. Buona serata a tutti. Ciao a tutti.